grazie posso. Alla pietà le rendi, non di me, di Costanza. Oh, se crudele, qualcher con me. Parla con più rispetto. Sì, pietà, perdono, l'omertà ben. Pensa, chi sei, chi sono.